l'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Un saluto da Deborah Rosciani e da Mauro Meazza. Siamo arrivati alla quarta puntata del nostro alfabeto del risparmio. E siamo così ormai giunti alle porte di ottobre 2020, che è il mese dell'educazione finanziaria. Sul sito quellochecontagov.it trovate, lo ricordiamo, tutte le iniziative promosse nell'ambito del mese su tutto il territorio nazionale. Progetti che puntano ad accrescere le conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle risorse finanziarie, personali e familiari. E sempre su quellochecontagov.it potete segnalare la vostra iniziativa, se con la vostra associazione o nel vostro comune, ad esempio, vi state attivando per dare spazio a questi temi così importanti. Sul sito trovate le linee guida individuate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che permettono appunto di inserire i progetti nel calendario del mese. Potrete quindi seguire tutte le indicazioni e dare alla vostra proposta anche questa visibilità. Ma ricordiamo che sempre sul sito quellochecontagov.it potete trovare fin da subito tanti contenuti divulgativi, contenuti interessanti che servono ad approfondire i temi dell'educazione finanziaria, ovvero i temi che mettiamo in evidenza in questo podcast originale di Radio 24 con il nostro alfabeto del risparmio. E in ogni puntata partiamo da una lettera per approfondire un argomento. Oggi abbiamo scelto la P di previdenza integrativa. Sentiamo. P come previdenza integrativa. Le pensioni italiane stanno definitivamente transitando, al netto di correzioni piccole e grandi, temporanee o permanenti, verso il sistema contributivo, basandosi cioè sui contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa e abbandonando il sistema retributivo, con l'assegno calcolato in percentuale degli ultimi stipendi percepiti. Il sistema contributivo è inevitabilmente meno generoso ed ecco perché serve una pensione di scorta, una previdenza complementare per integrare l'assegno pubblico che in futuro sarà sempre più magro e che dovrà anche soddisfare una platea sempre più longeva. Come spiega il sito quellochecontagov.it, fin dall'inizio della vita lavorativa è importante informarsi sullo sviluppo della propria posizione previdenziale e valutare l'opportunità di integrare la pensione di base per migliorare il tenore di vita futuro. Esistono varie forme di previdenza complementare a cui aderire in base alle proprie esigenze e condizione lavorativa. Il più noto è il Fondo Pensione Negoziale, che ha la caratteristica di essere istituito a seguito di accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Quasi ogni categoria professionale ha il suo fondo pensione dedicato. Il più grande è Cometa, il fondo pensione dei metalmeccanici. Il lavoratore ha però la libertà di fare una scelta diversa, aderendo a un fondo pensione aperto o un PIP, piano pensionistico individuale. In questo caso sono forme di previdenza complementare private istituite da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, SGR. Attenzione ai costi applicati dal fondo, perché hanno un impatto significativo sulla prestazione finale, che tradizionalmente viene erogata sotto forma di rendita mensile. Per questo è importante consultare la scheda dei costi nel documento Informazioni chiave per l'aderente, che viene consegnato al momento dell'adesione. Sul sito web della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, si possono consultare l'elenco degli ISC, indicatori sintetici dei costi di tutte le linee di investimento, e il comparatore dei costi delle forme pensionistiche, che permette di confrontare la diversa onerosità degli strumenti previdenziali che il mercato offre. La consapevolezza sui temi previdenziali è una questione di numeri, perché è bene fare i conti, stimare a quanto potrebbe aumentare o diminuire l'assegno della nostra pensione, regolandoci di conseguenza. Si tratta però prima di tutto di una questione culturale, perché il primo passo da fare è quello della consapevolezza. È un punto sul quale in Italia c'è ancora molta strada da fare. Noi ne abbiamo parlato con il professor Daniele Previati, presidente di ADEINF, l'associazione dei docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari e finanza d'impresa. Realtà in prima linea per la diffusione del sapere previdenziale fra gli universitari. Sentiamo che cosa ci ha detto. La questione previdenziale in Italia, come in altri paesi, è una questione non solo di apporto dello Stato da un lato o di iniziative private, quindi

Sindaci e cittadini all'ascolto, vi ricordiamo che tutte le informazioni utili le trovate sul portale del Comitato per l'Educazione Finanziaria, quellochecontagov.it. Vi ricordiamo anche che queste informazioni sono disponibili gratuitamente. E questa è l'ultima informazione che vi vogliamo dare per oggi, perché siamo così arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con l'alfabeto del risparmio. Auguriamo a tutti un buon mese di ottobre, un buon mese dell'educazione finanziaria. Ci sentiamo la prossima settimana per proseguire con il ripasso e l'approfondimento del nostro alfabeto del risparmio. Continuate a seguirci anche su www.radio24.it. Un saluto da Deborah Rosciani e da Mauro Meazza. In collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.